Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio da Luca Tremolada. Come avete sentito nei titoli del GR, l'attentato contro gli italiani a Kabul, noi lo seguiamo anche da Twitter, per ora solo notizie di cronaca. Comunque, per seguirlo basta che inserite, chi ha naturalmente un account Twitter, nel search cancelletto Taliban o cancelletto Kabul o cancelletto Afghanistan. Per ora, come vi ho detto, è solo la cronaca. Poi nel corso della giornata ci saranno anche le reazioni della blogosfera. Ma restiamo su internet e cambiamo però decisamente argomento, perché vogliamo provare a capire una cosa importante, cioè come si individuano i talenti su internet, non i talenti in generale ma i talenti letterari. Per rispondere a questa domanda mi accompagna in questa puntata Cristina Tagliabue, che scrive di creatività e cultura giovanile su Nova, oltre ad aver pubblicato un libro su ragazzine, corpo, chirurgia plastica, dico bene? Sì, esatto, buongiorno a tutti. Beh sì, e poi anch'io ce l'ho un blog in realtà, quindi un pochino di scrittura me ne intendo, soltanto che ci vuole una capacità tutti i giorni di applicarsi in maniera molto molto strenua, e quindi non sempre da un blog è facile uscire un libro. No, infatti ci vuole un po' di impegno. Ma a parlarci, oltre a Cristina, qui in studio abbiamo Federico Baccomo, che oltre ad essere collega di Cristina ha scritto Studio Illegale, che è sia un libro che un blog, dico bene? Esattamente. Allora sentiamo subito chi sei nella scheda di Cristina Tagliabue. Non si è mai mosso dalla zona 1 di Milano. Nato e cresciuto in pieno centro, è figlio di un dirigente Enel e di una maestra delle elementari. Sempre il massimo dei voti, si laurea in legge ma non è un avvocato come gli altri. Dopo aver trovato un posto nel prestigioso studio legale del centro Milano, decide di licenziarsi per mettersi a strimpellare su MySpace e per aprire un blog poi diventato romanzo. Da avvocato a scrittore di successo. Questa è la storia di Federico Baccomo, emblema di una generazione che si è espressa liberamente su internet, non nascondendo anche il dissenso rispetto alla professione. L'autore del sito, che poi è diventato il libro Studio Illegale in arte Duchesny, spiega: «Ho lavorato per 4 anni 17 ore al giorno. Poi mi sono preso 6 mesi di pausa perché non ce la facevo davvero più. Dovevo trovare me stesso». Dopo aver aperto un sito su MySpace, Federico decide di raccontare in un blog la sua complessa esperienza professionale, che è lo specchio del terziario avanzato dei nostri giorni. Oggi il suo libro è alla terza edizione e già il mondo del cinema sta interessandosi ai diritti di questo racconto casualmente nato. 824-0024 il numero per intervistare, per fare domande ai nostri blogger scrittori. 349-238-6666 sono gli SMS. Allora, Federico Baccomo, cioè tu avevi un lavoro, una carriera, un bravo ragazzo, e poi? E poi è successo che in realtà ti trovi a svegliarti ogni giorno per un lungo periodo e la prima cosa che pensi è che vorresti ritornare a dormire. E allora, e la scrittura è un po' un lettino da psicanalista da un certo punto di vista. Sì, no? O un modo di far polemica in qualche modo. Quindi tutto vero quello che è stato detto nella scheda, anche se sentirlo dire così ci mancherebbe. Io sembrava sentirlo dire così, il massimo dei voti e centro Milano, io stesso cominciavo a starmi abbastanza antipatico. No, è nato che appunto dalla mia esperienza professionale. Lavoravo in questo studio legale internazionale con 6.000 professionisti sparsi nel mondo, che è un po' il sogno di tutte le ambizioni appunto di chi fa quel tipo di lavoro, dell'avvocato. Entri in grandi strutture, lavori su grosse operazioni e questa è la parte, quella lucente, quella brillante che appare, insomma. Poi cosa è successo? Poi è successo che in realtà scopri che la vita dentro è molto diversa da quella che immagini, per cui è vero, c'è una buona retribuzione, c'è un grande livello di professionalità, però c'è anche che a un certo punto non vedi più gli amici, la ragazza ti lascia, ti lascia magari anche scegliendo qualcun altro che non fa quel lavoro, e qui parlo proprio... Quindi è lo stress, il ritmo. Esatto, e ti ritrovi che appunto invece di andare a cena con i tuoi amici, loro ti mandano un messaggio, ti danno la notifica dove vanno a cena, e se vuoi raggiungerli bene, se no si aspettano comunque che tu non... Dimmi, Cristina. E poi alla fine queste cene pare che insomma proprio non le abbia frequentate, no? Tra l'altro. Ma è vero che lavoravi 17 ore al giorno? È capitato e questo fa quasi ridere a sentirlo, perché sembra quelle cose da fantozzi, ma è capitato anche più di 17 ore al giorno. Ci sono dei giorni che lì si billa, si dice, vuol dire registrare le ore lavorate ogni giorno su questi fogli. Il billing è un conto, no? In realtà, sì, una in fatturazione, inglese, una fatturazione. Sì. E sostanzialmente può capitare di lavorare addirittura più di 24 ore al giorno e ti trovi a billare 28 ore al giorno, che è assurdo, per cui li devi smistare perché non sei uscito dall'ufficio, per cui alle 8 del mattino arriva la signora delle pulizie e ti dice che è una brutta cera. Quindi fammi capire, cioè brutta cera, vita invivibile, gli amici che se ne vanno, fidanzata ma boh chissà, vediamo. Esatto. La reazione cos'è? Accendo un computer e mi racconto. No, la reazione è stata prima di tutto mollare il lavoro, con quella che oggi posso far finta che sia stato coraggio, in realtà era abbastanza incoscienza. Ma cosa ti hanno detto quando hai fatto questa... Beh, in ufficio pensavano che io, meglio in studio, pensavano che io andassi in un altro studio. Ai miei genitori non l'ho detto, perché sennò probabilmente gli avrei dato, diciamo, un grosso dispiacere per essere educati. Per cui ho aspettato di fare la scelta di licenziarmi e poi appunto si è trattato di spiegare i motivi a... Ma Federico, dai, dici quanto guadagnavi? Allora, quando mi sono licenziato prendevo quasi 4.000 lordi al mese, salvo, cioè, bonus. Mia mamma avrebbe pensato che sei matto. Sì, sì, ma infatti il problema è stato dirlo a mia mamma. Quando mia mamma gli racconto qualcosa di che so che è problematico, lei non mi dice niente. Magari siamo a tavola, si alza da tavola, si mette sul divano e comincia a fissare un punto imprecisato in mezzo al tappeto. Allora lì io chiaramente ho dato la notizia, mia mamma si è alzata e è andata a fissare il punto sul tappeto. Al che ho detto a mio papà, riprendi la mamma che gli spieghiamo un po' la mia scelta. E anche mio papà è andato a sedersi sul divano a fissare il punto. E il problema era quello che nessuno capiva perché avevo fatto quella scelta. E lì è nata l'idea, adesso racconto cosa c'è davvero il retroscena. Esatto. Ma la logica è quella, ve la faccio vedere, cioè racconto quello che voi non sapete, o la logica è quella, appunto, come dicevo, da lettino di psicanalista, mi racconto perché ho bisogno di esprimermi in qualche modo e attraverso qualche mezzo. Più che altro la logica era che secondo me c'erano tantissime storie poco conosciute che erano divertenti da raccontare, per cui i primi post erano in realtà molto polemici, volevo insomma quella sorta di Don Quixote dei poveri. Poi è nata l'idea invece di creare una sorta di personaggio, un alter ego che raccontasse dall'interno quelle storie, quindi piuttosto che dire che i clienti degli avvocati sono gente arrogante, è stato, adesso ti racconto una telefonata tipo col cliente. Per cui faccio una sorta di sceneggiatura e piano piano sono nati i personaggi, i protagonisti e sono arrivati anche i lettori. Ecco Federico, nel tuo blog hai 400 commenti a pagina, vedo. Leggo soltanto il primo capitolo di quello che poi è diventato il tuo libro. Mi chiamo Andrea Campi, ho 30 anni e sono un professionista serio. Ultimamente non sto molto bene. Ecco, questo non sto molto bene no, ci fa intuire in realtà che non sei riuscito a reggerla, no? Questo tipo di ambiente che hai preferito alla fine scrivere. Ti ritieni quindi oggi un avvocato oppure più uno scrittore? Sì, in realtà è proprio quello, io non riuscivo a reggere, per quanto dico i risultati poi riuscissi anche ad averli, però se uno mette insieme tutto nella propria vita mi rendevo conto che la somma neanche zero, stavo proprio sotto, per cui quel tipo di vita era troppo pesante per me. Non sapevo cosa volessi fare appunto quando ho lasciato e questa storia che poi si è sviluppato appunto un blog e mi è stato proposto di scrivere un vero e proprio romanzo, che poi è stato pubblicato, in più ha venduto, è il classico sogno che si avvera, anche se sembra abbastanza ridicolo da dire. Ecco, da un sogno all'altro, io ti blocco perché abbiamo anche in collegamento Claudia De Lillo. Buongiorno Claudia. Buongiorno a voi. È vero che sei in uno sgabuzzino in questo momento? È vero, nello sgabuzzino delle scope della mia redazione. Non ti vergogni, perché adesso andremo subito a capire perché sei in uno sgabuzzino. Adesso noi abbiamo realizzato su di te anche una scheda, ok? Per cui ascolta che cosa diciamo su di te. Definirla una mamma blogger è riduttivo. Claudia De Lillo è Elastic Girl, un supereroe della normalità che ha saputo raccontare la sfiancante vita delle mamme lavoratrici e appassionare migliaia di lettrici. Nel suo libro, come nel blog, c'è tutta la sua famiglia e le quotidiane difficoltà di crescere due bambini di sesso maschile, uno grande di 5 anni e uno piccolo di 2. È un marito part-time perché, come spiega nel suo blog, buona parte del suo tempo sta a Londra, dove lavora. Nel settembre 2006 apre dunque www.nonsolomamma.com, che nel 2007 è stato premiato dai Blog Awards per la categoria intrattenimento. Dicono di lei: è riuscita a ricomporre, grazie alla sua vena comica, il morale di tante mamme. Che è una rappresentante e una guerriera di tutte le mamme. Ecco, se mi vedesse qui accovacciata, incinta, nello sgabuzzino delle scope, diciamo che questa scheda non mi fa onore. Cioè, io non faccio onore a questa scheda. Anche perché sei al terzo, no? Sei al terzo figlio. Sono al terzo maschio, ahimè. Sì, esatto. Però il tema è vero, è che di fatto hai dato una speranza a molte mamme, nel senso che sei riuscita in modo leggero e con una vena comica tutta tua. Tra l'altro, retroscena, io conosco Claudia De Lillo perché ci si incontrava durante le conferenze stampa finanziarie, per cui è anche ci incontravamo sui marciapiedi, esatto, davanti ai consigli di amministrazione, per cui il passaggio dal consiglio di amministrazione, quando ho visto il blog Non Solo Mamma, ho detto: beh, ha centrato il punto, cioè stai raccontando una storia che riguarda moltissime mamme del cosiddetto terziario avanzato, diciamo, cioè che devono dividersi in 40.000 lavori diversi. Esatto, esatto. E la cosa secondo me più difficile è mantenere dei compartimenti stagni, perché uno avrebbe voglia invece di fare tre vasi comunicanti, quindi la famiglia, il blog, il lavoro, per conciliare tutto. Invece nessuno di queste tre stanze della mia vita sa troppo l'una dell'altra, perché ovviamente io faccio la giornalista finanziaria, quindi non è che posso raccontare proprio in redazione dei fatti miei, dei miei bambini, delle cacche, delle cose schifose, certo, che sono legate anche alla maternità. Nello stesso tempo non posso trascurare i miei bambini per scrivere il blog, e comunque il blog è diventato sicuramente, è un divertimento, ma è diventato anche una componente importante e quasi irrinunciabile della mia vita. Quindi veramente a volte faccio fatica a tenere tutti i pezzi insieme. Claudia, c'è qui Cristina Tagliabue che vuole chiederti qualcosa. Sì, la prima domanda che mi è venuta in mente è stata proprio, cioè, con tutte le cose che hai da fare, proprio anche il blog, no? Ti sei messa ad aprire. Dove hai trovato il tempo? Ma guarda, è stato secondo me spirito di sopravvivenza, nel senso che avevo bisogno di creare uno spazio in cui riflettere sulla mia vita un po' schizofrenica e ridermi addosso, perché io sono convinta che veramente noi mamme con una vita difficile, ma non solo, secondo me, abbiamo bisogno dell'ironia per andare avanti. E allora ho creato questo spazio mio, che pensavo fosse solo ed esclusivamente mio. Tra l'altro, quando l'ho aperto non ho detto niente a nessuno, proprio perché così non mi interessava particolarmente. Magari leggevano il blog come indicazione di borsa, diventava aggiottaggio, erano fatti tuoi a quel punto, c'era tutta una metafora per dare dei consigli. Parole in codice. Non parla molto male di giornalisti, in realtà, nel libro, assolutamente, giornalisti finanziari. Senti, tra l'altro mi stanno arrivando un po' di SMS, dicono se sei la loro Elastic Mamma preferita, cioè, per cui è un successo. Tra l'altro, a proposito di questo, ma sono 3 milioni gli utenti del tuo blog? Beh, allora, diciamo che in 3 anni ho raggiunto la settimana scorsa la cifra di 3 milioni di visitatori, quindi fa impressione, da 3 milioni, però sono 3 anni e sono 3 milioni di visite. Cioè, un partito, quindi, praticamente, potresti fondare. Cioè, il passo successivo qual è? Perché hai scritto un libro, e ora? No, io cerco di non pensarci. Per il momento sono, cerco di concentrarmi anche senza riuscirci su questo poveretto che sta nella pancia, qui nessuno bada. Un po' perché è il terzo figlio, un po' perché sto lavorando, un po' perché appunto c'è il blog, il libro, tra. Quindi questo poveraccio crescerà tipo come l'erba, non lo so, da solo. Allora ogni tanto dico, beh, adesso respiro un attimo e ci penso, almeno 5 minuti. Dimmi Cristina. Ma nel blog poi racconta in realtà, oltre alle storie di mamma, anche le storie proprio di lavoro anche lei, no? Quindi volevo capire la differenza, visto che i colleghi d'ufficio si dividono in buoni, chiamati anche amici eroi, poi ci sono le spie, poi ci sono i non felici e poi le arpie. Ecco, la differenza in particolare tra le colleghe non felici e le arpie, se me la potevi spiegare. Guarda, questa è una teoria di mio figlio, che, di mio figlio grande, che ogni tanto se ne viene fuori. Il mio terrore è che se viene fuori con queste teorie di psicologia del lavoro, evidentemente perché qualcuno gliele trasmette e probabilmente sono io. Però non vorrei entrare nel dettaglio. No. Nova Lab 24. Bentornati da Luca Tremolada, sono in compagnia di Cristina Tagliabue, Federico Baccomo di studio del blog Studio Illegale e Claudia De Lillo di Non Solo Mamma. Ci stiamo domandando a questo punto come si scrive, perché la carta e internet sono decisamente due mezzi diversi, non sta a me a dirlo, ma soprattutto hanno dei ritmi e delle lunghezze, delle metriche completamente, se vuoi, opposte, cioè, da certo punto di vista. Certo, eppure Studio Illegale, questo libro e Non Solo Mamma e altri libri che sono usciti in questi anni sono la dimostrazione in realtà che ciò che viene scritto sui blog si può esattamente trasporre su carta. Basti pensare alla... Tu hai davanti a me il libro di Non Solo Mamma. Claudia De Lillo, ci senti? Stiamo leggendo il tuo libro. Le lasti presentazioni, in realtà, che è la prima pagina del blog, ma che poi è anche la prima pagina del libro. Ecco qui la presentazione della giornalista finanziaria. Ha due hobbit di sesso maschile. Il più grande ha 4 anni, ama le donne, il cioccolato e il Signore degli Agnelli. Da grande farà il cavaliere Jedi. Il più piccolo ama le papere e le scarpe, ha gli occhi tondi come il protagonista di un fumetto giapponese. Nei suoi quasi 2 anni di vita ha detto sì una volta sola e se n'è subito pentito. Lei ha un marito part-time, barese e comunista, e passa buona parte del tempo a Londra, dove lavora e dove probabilmente ha una vita parallela con un'altra moglie e altri figli inglesi. Insieme a loro c'è spesso Valentina, Dio la benedica, la babysitter degli Hobbit. Ecco, questo, come dire, è un esempio di blog, ma anche di libro alla fine. Ne sei orgogliosa, ma... De Lillo? Ma io sì, sono orgogliosa, ma è stato molto più facile di quanto temessi, quando io credo che mi rimarrà sempre in mente. Io scrivo i miei post la sera, seduta sul letto, spesso con uno dei due figli che dorme di fianco a me, anziché russa di fianco a me. Ed è un momento veramente magico della mia giornata, perché vuol dire che tutti dormono, che è tranquillo. E mi sono trovata questa email della casa editrice che mi proponeva di fare questo libro. E lì per lì ho detto, io non sarò mai capace di fare niente di simile. Non troverò il tempo neanche, perché poi è il tempo non quello. Non avrò il tempo, ma poi, vabbè, noi mamme siamo accompagnate veramente dal senso di inadeguatezza per tutto. Quindi figuriamoci un libro, i sensi di inadeguatezza che può scatenare. In realtà poi ho scoperto che che il tutto funzionava anche senza un grandissimo lavoro di trasposizione letteraria della cosa. Certo, non è Proust, non ha nessuna ambizione di essere letteratura alta, però comunque io credo che... Cambiato molto la mano, ecco. No, ma questo è quello che mi ha chiesto di fare la casa editrice, anche perché io tento, magari senza riuscirci sempre, di curare la lingua del blog. Io non credo che, siccome uno scrive un blog, può scrivere sciatto, può mettere errori, o può scrivere che, K-E o cose certo. Del genere. Io ci tengo molto, sono un po' una feticista della lingua, quindi probabilmente anche per questo è stato facile, perché ho sempre cercato di scrivere cose che filassero e che fossero scritte in un italiano che io ritenevo, non dico bello, ma decoroso. Ecco, noi abbiamo in linea anche Valeria di Napoli, in arte Pulsatilla. Buongiorno. Hola, buongiorno. Ecco, ci sentiamo subito chi sei nella scheda che ha scritto Cristina Tagliabue. Ha scritto sul suo blog, detto tra noi? Non lo so di preciso neanch'io cos'è Pulsatilla. Una mala erba che uno sciamano mi prescrisse perché ero cattiva? Che avesse ragione o no, ormai è troppo tardi per cambiare nome. Lei si chiama Valeria Di Napoli, ha 28 anni ed è nata a Foggia. Ama scrivere. Nel 2001 arriva in finale nel prestigioso premio Campiello Giovani. Si trasferisce a 18 anni dalla Puglia a Milano, dove svolge la professione di copywriter. Ma la vera aspirazione è il romanzo. Con La ballata delle prugne secche, una storia pseudo-autobiografica, ispirata al suo stesso blog, raggiunge la notorietà. La sua seconda fatica è Giulietta Squinz, ma non bisse il successo del suo primo romanzo. Oggi l'etichetta della blogger le sta stretta. Si sente più a suo agio in quella della scrittrice, ma nessuno la capisce. Pulsatilla. Mi sembra un riassunto eccezionale. Ti è piaciuto quindi? Ma quindi qual è il tema? Prima... Me lo vendete, ve lo compro subito. Prima, insomma, Claudia Di Lillo diceva io non ho cambiato tanto mano passando da internet al libro. Tu? Ma io sì, ma perché sono cambiata io, nel senso che... vabbè, al di là del fatto che ovviamente il mezzo libro consente una distensione maggiore, ma... tra il blog e le cose che sto scrivendo adesso penso che ci passino in mezzo diversi mari, ma perché sono passati forse anche quanti anni? 2003-2009, vabbè, fate voi le sottrazioni, però insomma credo nell'evoluzione. A me non piacciono gli scrittori, i blogger, gli autori, gli artisti e neanche gli artigiani che rimangono identici. Ecco, tu hai detto evoluzione, nel senso evoluzione genetica, nel senso che ormai non ti guardi indietro e quando eri una blogger, tra virgolette, eri qualcosa di estremamente diverso rispetto a quello che sei oggi, o percepisci un tuo cambiamento strutturale? Ma sì, ma in realtà bisogna intendersi su come la scrittura viene vissuta. Per me è una cosa che combacia molto con come sono io, cioè scrivo per liberarmi, ho sempre scritto quando sono molto piccola per organizzare l'esperienza della mia vita, per liberare i demoni, e quindi non ho un approccio impiegatizio alla scrittura, perciò man mano che cambio io cambia anche quello che scrivo, però in questo internet non c'entra, cioè internet era la cosa che avevo sotto mano quando ho raggiunto la popolarità, però non sono in debito chiaro. Col mezzo. Sì, credo. Cristina. Sì, in realtà mi stavo domandando se la prima descrizione che ha fatto della ragazza moderna all'interno del libro La ballata delle prugne secche in qualche modo la soddisfa ancora, visto che, insomma, leggo dal libro, ha lavorato in vari bar e pub di Foggia, Last Butterfly, il Kandinsky, nella ristorazione addirittura, e poi, insomma, prima di passare a Milano c'è stato il passaggio a Londra, ha avuto una parentesi come venditrice di Herbalife. Hai raccontato, diciamo, le professioni contemporanee, non è anche la precarietà, se vuoi, no? Ma tanti di questi passaggi. Ecco, ti rivedi ancora così oppure come ti descriveresti oggi? Ma sai, in realtà l'impatto con Milano fu pazzesco, perché uscendo mi fermai in un primo bar e un succo d'ananas lo pagai 11.000 lire nel 2000, e quindi lì, cioè, io ero frustratissima perché avevo pochi soldi, quindi mi sono dovuta, a Milano in particolare ho fatto molti più lavori di quanti ne abbia fatti a Foggia, cioè volantinaggio, intervistatrice, e sono tutte palestre, perché poi penso che l'intellettuale sia, scomodiamo sto parolone, però insomma una persona che comprende quello che gli sta intorno, quindi passarci personalmente penso che poi sia un vantaggio per potersi medesimare, anche quando il tuo conto corrente si gonfia un pochettino, insomma il mio non è senz'altro quello di Tronchetti Provera, però non devo più fare ecco, non devo più surare a proposito i testi. Di intellettuale, qui c'è un sms che però devo dire è rivolto a Baccomo, che è qui davanti a me, e dice: un altro fannullone che per sua fortuna ha trovato l'espediente di non lavorare. Sì, no, questa è... La percezione può anche essere questa, no? Sì, no, spesso è stata questa la percezione. La verità è che secondo me forse più da fannulloni sedersi su quello che sia. Cioè, io ho buttato via una professione che mi pagava tanto e che mi dava anche un futuro più tranquillo per il niente. In quel momento non sapevo che avrei scritto un romanzo, che me l'avrebbero proposto, e non sapevo che questo romanzo avrebbe venduto. Per cui sia sul fatto di essere fannullone, sia sul fatto di avere la fortuna di non far niente, insomma, bisognerebbe dargli un significato un po' più preciso. C'è un'inquietudine di fondo poi nel momento in cui lasci Sì, anche perché poi la fortuna in realtà te la devi andare a prendere. E è vero, io sono stato molto fortunato in questa proposta che mi è stata fatta. Però ecco, se non avessi mollato il lavoro, mi fossi seduto sulle 14 ore di lavoro al giorno a fare il non fannullone, forse oggi starei peggio. Ancora complimenti per la Claudia De Lillo. La mattina in ufficio, un post di Non solo mamma con qualche battuta, e la giornata va avanti con un bel sorriso. Claudia, ma quindi il blog, al di là dei libri, poi diventa anche uno strumento di quotidiano da un certo punto di vista, nel senso che questo è poi un tema, si arriva forse molto di più con un post quotidiano, con un contatto con l'autore quotidiano, che con un libro che poi magari va a finire su una bancarella. Tu che dici? Ma il libro sicuramente è statico, anche se è molto più nobile. A me poi è capitato tutto un po' per caso, il libro veramente, come forse capita a tutti, non lo so, però non era neanche una mia ambizione, è capitato. Il blog è stato un lavoro, diciamo, più certosino, e il fatto di scrivere tutti i giorni, io sono un po' milanese calvinista, per cui questa cosa di scrivere tutte le sere un post così è un'arma a doppio taglio, nel senso che poi quando leggi appunto delle cose carine come queste, ah sì, tutte le mattine ti leggo, un piacere, ti viene anche un po' di ansia, nel senso che 8 volte su 10 il post lo scrivi con vero piacere. Ogni tanto poi ti trovi lì la sera appunto col bambino che russa da una parte, tu che vorresti solo dormire, e dici, ma io oggi cosa gli racconto, perché tirare fuori delle cose che degne di essere lette ogni giorno, a volte io la trovo una fatica sovrumana. Abbiamo 2 minuti, io volevo chiedere in chiusura a Pulsatilla se nel tuo caso si può parlare di un ritorno al blog, cioè se il blog adesso che cosa rappresenta per te? Ma io penso che negli ultimi 6 mesi avrò scritto 4 post, tutti per giustificarmi del fatto che non scrivo abbastanza post, più o meno, nel senso che la maggior parte del mio lavoro si svolge ora davanti al computer, quindi il blog non è più la fuga dal computer, non è più l'evasione dal lavoro, ma l'evasione del lavoro è chiudere il computer. Perciò il blog rappresenta il legame con i miei primi lettori e anche una specie di biglietto da visita, perché chi non sa chi sono io di solito scrive Pulsatilla blog su Google e va a farsi. Ma guai a chiamarti blogger? O ti si può ancora chiamare blogger? Ma sai, è uguale, cioè, tanto quello che sono non cambia. Le definizioni non deformano le persone. Sono scatole le definizioni, lasciamole ai sociologi. Io ti ringrazio Claudia De Lillo, Non solo mamma, ringrazio Valeria Di Napoli alias Pulsatilla, e ringrazio Federico Baccomo, l'ho azzeccata, di Studio Illegale. Nova Lab 24. Nova Lab 24. Firefox ottiene la maggioranza assoluta. Secondo Exo Performance Network, portale che monitorizza in tempo reale l'uso e la configurazione di migliaia di PC a livello globale, il 50,6% dei computers in tutto il mondo utilizza il browser Mozilla. Altro primato per Skype, che ha superato MSN divenendo l'instant messenger più diffuso. Un servizio per bloccare lo spam e verificare l'identità online, ma anche un sistema affidabile per digitalizzare libri. È l'ultimo acquisto di Google, annunciato ieri sul blog del motore di ricerca. Il software permette di verificare che ad inviare le informazioni ai server siano persone e non programmi di spam, e di risolvere i problemi connessi alla digitalizzazione dei supporti cartacei. Lo sviluppo mondiale dell'industria IT dipende più che mai dalla competitività. È questo in sintesi il giudizio dello studio annuale sulle condizioni della competitività nel settore dell'information technology a livello globale, diffuso dall'Economist Intelligence Unit. Il rapporto, patrocinato da Business Software Alliance, afferma la necessità di incentivare ricerca, innovazione e formazione di personale altamente specializzato. Finalmente un BlackBerry alla portata di tutti. Pronto al lancio Curve 8520, modello low cost del celebre smartphone prodotto da Research in Motion. Il nuovo Palmare riprenderà il design classico del BlackBerry e avrà un'interfaccia agile e veloce, anche se utilizzerà le normali reti mobili GSM invece delle reti cellulari a banda larga e non disporrà di GPS. Quasi più adrenalina che guidare una Ferrari nella vita reale. È l'esperienza che promette Need for Speed, il simulatore di guida prodotto da Electronic Arts da domani nei negozi, che combina un grande realismo nella grafica e negli effetti alle autentiche emozioni della guida estrema su pista. Il videogame sarà disponibile per un'ampia gamma di piattaforme, tra cui PC, PSP, PS3 e Xbox 360. Rieccoci, Cristina. Facciamo un bilancio ora che non ci sente più nessuno, abbiamo solo Baccomo che ci guarda fisso, cioè com'è che sono andate le esperienze di blogger che sono passate alla carta? Non è facile in realtà creare un successo editoriale su un blog, no? Sembra così semplice, sono due cose da fare, accendi il computer e inizi a scrivere. In realtà ci sono state intere case editrici che hanno basato sui blog la loro produzione invece cartacea. Un esempio di qualche anno fa, la casa editrice RGB con la linea scritto misto, cito un libro per tutti, Ho perso la verginità durante una puntata di Ok, il prezzo è giusto e così tanti altri libri, un'iniziativa molto simpatica in realtà, che ha pubblicato appunto, messo in libreria tanti blog di successo, ma insomma poi hanno dovuto chiudere perché trasformare un blog in un successo reale vuol dire anche conoscere molto molto bene il mercato dei lettori cartacei, che sono diversi da quelli digitali. Un altro libro molto interessante invece che è andato bene è Blog Girls, voci femminili della rete, edito dagli Oscar Mondadori Oggi e a cura di un poeta, Mario Benedetti. Qui sono tutte voci al femminile, una cosa molto simpatica che si legge velocemente, ecco. Mentre Baccomo rischia di andare al cinema. E c'è questo rischio, sono stati... Ma puoi anche scegliere l'attore che prenderà, ti impersonerà. Avevo proposto Scamarcio, ma non tanto per la bellezza, ma quanto per lo sguardo. Perché quando fai quel lavoro lì, che guardi sempre il computer e poi ti consigliano di ogni due ore di riequilibrare la vista guardando un punto lontano. E Scamarcio ha sempre un po' questo sguardo di uno che sta riequilibrando la vista. Stai sparando dopo... un po' alto, la sai, la cui... è giusto. Anch'io vorrei tanto, anche se non ho capelli, però Scamarcio potrebbe andare quella bene. Quella dei capelli è una cosa che comincia a colpire anche me. Tra l'altro, però non solo quindi il film, l'altra cosa che stai facendo è stai scrivendo un altro di libro, perché chiaramente hai lasciato il lavoro da avvocato, adesso ti tocca far andare le dita sulla tastiera. Sì, ho cominciato questo secondo libro, poi settimana scorsa il mio computer è morto e ho capito che in effetti fare il backup è un segno del destino, quando succede è sempre... Infatti quando sono andato all'assistenza ho sperato che mi dicesse no, recuperiamo tutto, infatti me l'hanno detto, adesso aspetto di vedere se il destino torna a sorridere, insomma. Ecco, io ricordo un po' di indirizzi, la mail novalab24@radio24.it è sempre uno scioglilingua che mi riesce malissimo, ma soprattutto il Twitter di novalab24, dove abbiamo scritto il blog, l'indirizzo email, tutto vi abbiamo scritto degli ospiti in trasmissione, dove potete un po' navigare e metteremo anche un po' di libri interessanti, no? Certo, perché no? Possiamo aggiungere tutto questo, mi fanno segno dalla regia che la trasmissione è finita. Io ricordo che alle 18 lo speciale Afghanistan e domani ci sentiamo e parleremo di fisica.